stanza minuta e scalmanata a cui ba- Ad alta voce, Rolando Ravello legge Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, traduzione di Tommaso Pincio. Io ero ancora con Jordan Baker. Eravamo seduti a un tavolo insieme a un uomo della mia età e una ragazza minuta e scalmanata a cui bastava un pretesto qualunque per abbandonarsi a risa incontrollate. Mi stavo divertendo adesso. Avevo preso due coppe di champagne e la scena davanti ai miei occhi si era trasformata in qualcosa di significativo, fondamentale e profondo. In un momento di pausa dello spettacolo l'uomo mi guardò e sorrise. «Il vostro viso mi è familiare», disse con garbo. «Non eravate per caso nella terza divisione durante la guerra?» «Diamine, sì! Ero nel 9° battaglione mitraglieri. Io nel 7° fanteria sino al giugno del 18 ero certo di avervi già visto da qualche parte». Parlammo per un po' di paesini grigi e umidi della Francia. Era evidente che vivesse nei dintorni perché mi informò di aver appena acquistato un idrovolante e di volerlo provare il mattino seguente. «Vi piacerebbe venire con me, vecchia Lenza? Senza allontanarci dalla costa, lungo lo stretto?» «A che ora?» «All'ora che meglio vi aggrada». Ero giunto sul punto di chiedergli come si chiamasse quando Jordan si guardò attorno e sorrise. «Vi divertite ora?» domandò. «Molto di più». Tornai a rivolgermi alla mia nuova conoscenza. «È una festa di solito per te, non è venuto il sito di casa?» «Abito laggiù», mossi la mano in direzione dell'invisibile siepe in lontananza. «E questo Gatsby ha spedito da me il suo chauffeur con un invito». Per un attimo l'uomo mi guardò come se non riuscisse a capire. «Sono io, Gatsby», disse d'un tratto. «Cosa?» esclamai. «Oddio, vi domando perdono. Pensavo lo sapeste, vecchia Lenza. Temo di non essere granché come padrone di casa». Sorrise in modo comprensivo, molto più che comprensivo, in effetti. Era uno di quei rari sorrisi che trasmettono una forma di eterna rassicurazione e nei quali può capitare di imbattersi non più di 4 o 5 volte nella vita. Per un istante si rivolge, o pare rivolgersi, all'intero mondo esterno, per poi concentrarsi solo su di voi, attratto da un incontenibile pregiudizio in vostro favore. Vi capisce fin dove volete essere capiti, crede in voi quanto desiderate si creda in voi e vi assicura che l'impressione che gli avete dato è esattamente quella che sperate di poter dare al meglio delle vostre possibilità. Ed esattamente in quell'istante il sorriso svanisce. E io mi ritrovai a guardare un elegante giovane attaccabrighe che aveva superato da un anno o due i 30 e la cui ricercata formalità nel parlare rasentava il ridicolo. Poco prima che si presentasse da sé, avevo avuto la netta sensazione che scegliesse le parole con cura. Quasi nell'istante in cui il signor Gatsby rivelò la propria identità, un maggiordomo si precipitò verso di lui per annunciare una telefonata in arrivo da Chicago. Gatsby si scusò con un piccolo inchino rivolto a ognuno di noi. «Qualunque cosa desideriate, non dovete che chiederla, vecchia Lenza», mi raccomandò. «Scusatemi, vi raggiungo più tardi». Dopo che si fu allontanato, mi voltai immediatamente verso Jordan. Non potevo non trasmettere la mia sorpresa. Mi aspettavo che il signor Gatsby fosse un uomo di mezza età, sgargiante e corpulento. «Chi è?» domandai. «Lo sapete?» «È solo un uomo di nome Gatsby. Voglio dire, da dove viene? Cosa fa?» «Adesso siete voi a tirare fuori l'argomento», replicò lei accennando un debole sorriso. «Beh, mi ha detto una volta di aver studiato a Oxford». Un nebuloso passato cominciò a prendere forma alle spalle dell'uomo, ma svanì alla successiva osservazione di Jordan. «Tuttavia non ci credo». «Perché no?» «Non so», insiste, «non credo ci sia stata parata». Qualcosa in suo tono mi rammentò di quanto aveva detto l'altra ragazza. «Credo abbia ucciso un uomo». E sortì l'effetto di stimolare la mia curiosità. Avrei accettato senza questionare che Gatsby fosse spuntato dalle paludi della Louisiana o dal Lower East Side di New York. Sarebbe stato comprensibile. Ma i giovani non si materializzavano come niente fosse dal nulla per comprare una reggia sullo stretto di Long Island. Perlomeno non i giovani che mi figuravo in base alla mia provinciale inesperienza. «Ad ogni modo, dalle grandi feste», disse Jordan, cambiando argomento con una sofisticata avversione per le questioni concrete. «E a me piacciono le grandi feste. Sono così intime. In quelle piccole non c'è riservatezza». Si sentì il rimbombo di una gran cassa e la voce del direttore d'orchestra risuonò d'improvviso sopra l'ecolalia del giardino. «Signore e signori», gridò, «su richiesta del signor Gatsby, suoneremo per voi l'ultima composizione del signor Vladimir Tostov, che tanta attenzione ha attratto alla Carnegie Hall il maggio scorso. Se leggete i giornali saprete che ha fatto molto scalpore». Sorrise con gioviale condiscendenza e aggiunse: «Un certo scalpore», al che tutti risero. «Il pezzo è noto», concluse energico, «come la storia del mondo in jazz, di Vladimir Tostov». La natura della composizione del signor Tostov mi sfuggì, perché mentre iniziava, i miei occhi caddero su Gatsby, che si ergeva solitario sulla scalinata e spostava lo sguardo da un crocchio all'altro con aria d'approvazione. La pelle abbronzata gli si distendeva in maniera piacevolmente compatta sul volto, e i suoi capelli davano l'impressione di venire spuntati ogni giorno. Non riuscivo a scorgere alcunché di sinistro in lui. Mi domandai se il fatto che non stesse bevendo contribuisse a collocarlo su un piano diverso dai suoi ospiti, perché mi pareva che assumesse un contegno sempre più formale man mano che l'allegria generale cresceva. Terminata la storia del mondo in jazz, alcune ragazze poggiarono la testa sopra le spalle degli uomini con fare conviviale e un po' da cucciolo. Altre si lasciarono cadere giocosamente all'indietro nelle braccia degli uomini, anche a gruppi, sapendo che qualcuno avrebbe arrestato la loro caduta. Nessuna però si lasciò cadere addosso a Gatsby, così come nessun caschetto alla francese sfiorò le spalle di Gatsby, né si formò nessun quartetto canoro che includesse la testa di Gatsby. «Chiedo scusa», d'un tratto il maggiordomo di Gatsby era in piedi accanto a noi. «Signorina Baker», si informò, «perdonatemi, ma il signor Gatsby vorrebbe parlare con voi in privato». «Con me?» esclamò lei sorpresa. «Sì, madame». Si alzò lentamente, inarcando stupita le sopracciglia verso di me, e seguì il maggiordomo in casa. Notai che portava l'abito da sera, come del resto qualsiasi altro vestito, alla maniera di una tenuta sportiva. C'era una vivacità nei suoi movimenti, come se avesse imparato a camminare sui campi da golf in mattinate terse e frizzanti. Mi ritrovai solo, ed erano quasi le due. Da un bel pezzo rumori confusi e intriganti si propagavano da una lunga stanza dalle molte finestre che sovrastava la terrazza. Evitando lo studente di Jordan, che era adesso impegnato in una conversazione di argomento ostetrico con due ballerine e mi implorava di unirmi a lui, entrai in casa. Il salone era pieno di gente. Una delle ragazze in giallo stava suonando il pianoforte e accanto a lei si ergeva un'alta e giovane dama dai capelli rossi, membro di un famoso coro impegnato in una canzone. Aveva bevuto una discreta quantità di champagne e nel corso della canzone aveva maldestramente stabilito che tutto era molto, molto triste. Non stava solo cantando, piangeva anche. Ogni volta che si presentava una pausa nella canzone, lei la colmava di singulti ansimanti e spezzati e quindi riprendeva il testo con voce tremula da soprano. Le lacrime le scendevano sulle guance. Non senza incontrare ostacoli, tuttavia, perché nel venire a contatto con le ciglia pesantemente dipinte assumevano un colore sporco d'inchiostro e proseguivano il cammino in lenti rivoli neri. Le fu spiritosamente suggerito di cantare seguendo le note che aveva sul viso, al che lei alzò le mani in gesto di resa, si abbandonò su una sedia e si addormentò in un sonno profondo e avvinazzato. Una discussione con un uomo che sostiene di essere suo marito, spiegò una ragazza al mio fianco. Mi guardai attorno. La gran parte delle donne rimaste erano ora impegnate in discussioni con uomini che sostenevano di essere i loro mariti. Finanche la comitiva di Jordan, il quartetto di East Egg, era lacerata dai dissensi. Uno degli uomini stava parlando con curiosa intensità a una giovane attrice e sua moglie, dopo aver tentato di riderci sopra in maniera dignitosa e indifferente, era crollata e aveva cominciato a lavorarlo ai fianchi. A intervalli regolari appariva inaspettata accanto a lui. Come un diamante che scintilli di rabbia gli sibilava nell'orecchio: avevi promesso. La riluttanza a prendere la via di casa non era confinata agli uomini bizzosi. Al momento la sala era occupata da due uomini deplorevolmente sobri e dalle consorti molto indignate. Le mogli simpatizzavano parlando a voce un poco alta. Quando vede che mi sto divertendo smania per tornare a casa. Non ho mai sentito nulla di più egoistico in vita mia. Siamo sempre i primi ad andarcene, anche noi. Beh, questa sera siamo quasi gli ultimi, disse uno degli uomini in tono sonnolento. L'orchestra se n'è andata mezz'ora fa. Sebbene le mogli avessero raggiunto una piena intesa circa il fatto che una simile malevolenza avesse dell'incredibile, la disputa si risolse con una breve azzuffata ed entrambe le mogli, seppure scalcianti, furono trascinate di peso nella notte. Mentre ero nell'atrio, in attesa del mio cappello, la porta della biblioteca si aprì e Jordan Baker e Gatsby uscirono insieme. Le stava dicendo ancora qualcosa, ma il suo entusiasmo fu bruscamente soffocato e sostituito da una rigida formalità appena diverse persone gli si fecero incontro per salutarlo. La comitiva di Jordan la reclamava con impazienza dalla veranda, ma lei indugiò ancora un momento per qualche stretta di mano. «Ho appena sentito qualcosa di davvero stupefacente», sussurrò. «Quanto tempo siamo rimasti là dentro?» «È stato semplicemente incredibile», ripeté in tono assente. «Ma ho giurato di non parlarne e ora sto qui a stuzzicarvi», mi sbadigliò in faccia con eleganza. «Vi prego, venite a trovarmi, sono sull'elenco telefonico. Cercate la signora Sigourney Howard, è mia zia». Si allontanò di corsa nel dirmi queste parole. La sua mano abbronzata sventolò un saluto allegro mentre lei si mescolava alla comitiva che era sulla porta. Alquanto in imbarazzo che la mia prima visita si fosse protratta tanto a lungo, mi unii agli ultimi ospiti di Gatsby che si erano raccolti attorno a lui. Volevo spiegare che era stata mia intenzione cercarlo fin da inizio serata e scusarmi per non averlo riconosciuto in giardino. «Per carità», mi intimò con calore, «non pensateci più, vecchia Lenza». In quell'espressione familiare non c'era più familiarità che nella mano che mi batteva sulla spalla per rassicurarmi. «E non dimenticate che domattina alle 9 ci aspetta un'escursione in idrovolante». «Quindi il maggiordomo, da dietro le sue spalle, chiedono di voi da Filadelfia, signore». «Bene, solo un minuto. Ditegli che arrivo subito. Buonanotte». «Buonanotte». «Buonanotte», sorrise. Ed improvviso mi sembrò qualcosa di piacevole e significativo ritrovarmi tra gli ultimi ad andare via. Come se questo fosse stato da sempre il suo desiderio. Buonanotte. Ma mentre scendevo i gradini vidi che la serata non era del tutto conclusa. A 50 metri dalla porta una dozzina di fari illuminavano una scena bizzarra e tumultuosa. Nel fosso al lato della strada, non ribaltata ma violentemente mutilata di una ruota, giaceva una coupé nuova che aveva lasciato il viale d'accesso alla casa di Gatsby non più di 2 minuti prima. La combinata sporgenza di un muro spiegava il distacco della ruota, che ora stava godendo di una considerevole attenzione da parte di 5 o 6 chauffeur incuriositi. Tuttavia, dal momento che costoro avevano abbandonato le auto, bloccando il passaggio, già da un pezzo un chiasso stridulo e stonato si levava dalle vetture in fondo alla strada, aggiungendosi alla confusione già intensa della scena. Un uomo con indosso un lungo spolverino era sceso dal rottame e adesso era in piedi, in mezzo alla strada, e spostava il proprio sguardo dall'auto alla gomma e da questa agli spettatori in un modo affabile e perplesso. «Vedete?» spiegò. «È finita nel fosso». Il fatto pareva infinitamente sbalorditivo ai suoi occhi. E io riconobbi dapprima l'insolita peculiarità della sua meraviglia, e quindi l'uomo. Era l'ospite della biblioteca di Gatsby, di poco prima. «E com'è accaduto?» scrollò le spalle. «Non so un H di motori», disse con decisione. «Ma com'è successo? Siete finito contro il muro?» «Non chiedetemelo», disse Occhi di Civetta, lavandosene le mani. «So a malapena guidare, diciamo pure che non so guidare affatto. È successo, e questo è tutto quello che so». «Beh, se siete un automobilista tanto scarso, non dovreste arrischiarvi a guidare di notte». «Ma non mi sono arrischiato», spiegò indignato. «Non mi sono arrischiato». Un silenzio intimorito calò tra gli astanti. «Volevate suicidarvi, per caso? Potete considerarvi fortunato se ci avete rimesso solo una ruota. Siete un pessimo guidatore e sostenete di non esservi arrischiato». «Voi non capite», spiegò lo scellerato. «Non ero io che guidavo, c'era un altro uomo nell'auto». Il turbamento che seguì a questa dichiarazione trovò voce in un prolungato «Ah!», mentre la portiera della coupé si apriva lentamente. La folla, si trattava ora di una folla, fece un involontario passo indietro e quando la portiera fu spalancata del tutto seguì una pausa spettrale. Quindi poco a poco, pezzo a pezzo, un individuo pallido e pencolante uscì dal rottame e sondò dubbioso il terreno con una grossa scarpa da ballo che si muoveva incerta. Accecata dal bagliore dei fari e stordita dal muggito incessante dei clacson, l'apparizione rimase a barcollare per un po' prima di distinguere l'uomo con lo spolverino. «Che problema c'è?» si informò con calma. «Abbiamo finito la benzina?» «Guardate!» Una mezza dozzina di dita puntò la ruota amputata. Lui la fissò un istante e quindi sollevò lo sguardo come sospettasse che fosse caduta dal cielo. «È venuta via!» spiegò qualcuno. Lui annuì. «Sul momento non mi ero accorto che ci fossimo fermati». Una pausa. Poi riprendendo fiato e raddrizzando le spalle, con voce determinata domandò. «Sapete dirmi dov'è una stazione di servizio?» Almeno una dozzina di uomini, alcuni dei quali in condizioni un po' migliori delle sue, gli spiegò che ruota e auto non erano più uniti da alcun legame fisico. «Tiratela fuori», propose dopo un momento. «Mettetela in retromarcia». «Ma si è staccata la ruota!» lui esitò. «Tentar non nuoce», disse. Il lamento dei clacson aveva raggiunto l'apice. E io mi voltai e tagliai per il prato diretto verso casa. Mi girai per dare un'occhiata una volta soltanto. Un'ostia di luna scintillava sopra la dimora di Gatsby, rendendo la notte bella come prima e sopravvivendo alle risa e ai rumori del giardino che ancora risplendeva. Un vuoto improvviso sembrava ora fluire dalle finestre e dalle grandi porte, conferendo un'aura di isolamento assoluto alla sagoma del padrone di casa in piedi sulla veranda, la mano alzata in un formale gesto d'addio. Well, it's all your fault if I ain't sleeping, live on dreams instead of eating. I'm just a wreck, and it's all your fault. And it's all your fault if I ain't playing, having fun, if I'm staying all by myself. Yeah, it's all your fault. When you said that we were through, I tried to find somebody new, but I found out it wouldn't do. I'd rather be alone than with somebody new. When I'm a grandma and my grandkids don't call you grandpa, I'll just tell them it was all your fault. Thank you. somebody new and so